Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Di fronte al leggero sollievo procurato dalla flessione dei carburanti registrata negli ultimi tempi, anche se siamo certi che per la realtà anche questa tendenza virtuosa è pronta a virare di nuovo, ci pensano i costi delle autostrade a dare noie ai nostri amici automobilisti e trasportatori. Ebbene sì, brutte notizie, proprio dalla mezzanotte di oggi sono scattati a ridosso di un weekend che si annuncia peraltro di bel tempo in tutta Italia, nuovi aumenti dei pedaggi autostradali. Per le tratte della rete Autostrade per l'Italia l'aumento è impercettibile, però è l'ennesimo e in ogni caso è dello 0,07% e si sommerà appunto al più 3,47% di aumento già applicato dalla società a dicembre dello scorso anno. Per la rete Autostrada Tirrenica SAT si applicherà il 3,8%, aumenti previsti anche per i collegamenti tra Brescia, Verona, Vicenza e Padova con una media di circa il 3%. E in un paese come l'Italia dove l'86% del trasporto commerciale avviene su gomma, rincari di questo tipo non potranno non incidere anche sui prezzi di molti beni di consumo e infatti è già scattato anche l'allarme fra gli operatori di settore che peraltro parlano di una vera e propria nuova beffa che è arrivata. Si lamentano molto gli autotrasportatori, poi li sentiremo, si lamentano anche gli addetti delle vendite porta a porta, tanti operatori appunto commerciali che naturalmente sono penalizzati molto da questi nuovi rincari. E allora noi stamattina parleremo di tutto questo cercando di capire chi ci rimette, tutto sommato tutti quanti, perché più o meno viaggiamo tutti. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta su questo argomento, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Se ci volete scrivere ci trovate all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it. Su Facebook salvadanaio-radio24, ci sono già un paio di messaggi che vi leggo fra qualche istante. Su Twitter @salvadanaio24. Carlo ci scrive: questo è proprio un bel momento per fare i rincari. Tra un po' il costo dei carburanti e la gestione di una vettura, torneremo tutti alle biciclette ed è uno dei settori che registra qualche incremento. Alberto, più poetico e romantico, scrive invece: potrebbe essere un modo, quale quello dei aumenti dei pedaggi autostradali, per percorrere strade interne nell'ambito dei nostri territori, si risparmia e si vedono luoghi incantevoli. Alberto, il suo commento è nobile, gli autotrasportatori che lavorano che macinano ogni giorno chilometri e chilometri di strada appunto per lavoro, non credo che la vedano in maniera così romantica come lei, ma prendiamo atto della sua bella osservazione. Chi c'è con noi questa mattina? Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Ciao Maurizio, buongiorno. Ciao, buongiorno. Emilio De Ledi, caporedattore della redazione Attualità di Quattro Ruote. Emilio, buongiorno, benvenuto anche a te, bentornato anzi. Buongiorno a voi, saluto a tutti. E poi tra un po' ci collegheremo con Luca Pozzoli, presidente di Univendita, che è l'associazione che raduna le imprese che operano proprio con il canale della vendita diretta, i lavoratori, i commercianti, i operatori porta a porta, e Cinzia Franchini, presidente nazionale della FITA CNA, la Federazione degli Autotrasportatori aderenti appunto alla Confederazione Nazionale degli Artigiani. Vi ho già dato tutti i numeri per interagire con noi, adesso altri numeri, quelli della borsa. Giornata con il segno meno che prevale fra gli indici del vecchio continente, ma insomma questa settimana dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo visto sui mercati. Quasi parecchie piazze hanno toccato i loro record assoluti, come è successo a Wall Street, come è successo anche a Tokyo nelle ultime giornate dopo la maxi operazione di stimolo monetario lanciata settimana scorsa dalla Banca Centrale del Giappone. Il Nikkei ha viaggiato in netto rialzo per tutta la settimana, oggi ha frenato per mezzo punto. Mentre abbiamo cali, appunto, dicevamo, sulle borse europee, con Parigi che scende dello 0,7%, Francoforte -1,17%, Londra -0,57% e Milano in calo dell'1,29%. Qualche caso di piazza affari, l'Europa oggi è un po' agitata anche perché, come avete sentito nel giornale radio, Cipro ha chiesto un aiuto finanziario supplementare di 5 miliardi. e poi adesso anche la questione portoghese torna a destare l'attenzione dell'Eurogruppo, dei numeri uno appunto dei vertici europei. Telecom, miglior titolo di Piazza Affari, più 2,53%, in una giornata che naturalmente fa scattare le prese di profitto sui titoli che hanno corso molto negli ultimi giorni. Oggi la giornata si concentra sulla società che ha una storia da raccontare, si parla di questa possibile integrazione con Tre Italia. Naturalmente però i cinesi di Hutchison Whampoa, che controllano il gruppo italiano, hanno posto dei paletti e delle condizioni per questa possibile integrazione. Comunque il mercato ci crede, al mercato piace questa possibilità, il titolo appunto è in rialzo. Prysmian più 0,12, abbiamo terminato qua i titoli positivi, andiamo a vedere chi perde di più. Mediaset meno 5,42, Banco Popolare meno 3,67, Ubibanca meno 3,63, Popolare dell'Emilia Romagna meno 3,10, meno 2,5 punti per la Popolare di Milano, Unicredit meno 2 per Fiat, Buzzi Unicem, Exor e Saipem. Per la borsa è tutto, il tema di oggi, i nuovi aumenti dei pedaggi autostradali. Nuovi aumenti in arrivo sulle autostrade italiane. In molti casi, anzi, sono già arrivati, scattati precisamente alla mezzanotte di oggi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in accordo con quello dell'Economia, ha infatti dato l'ok alle richieste di aumento di alcune concessionarie autostradali, che erano state sospese a gennaio in via cautelativa per verificare la fattibilità degli investimenti a loro carico. Chi viaggia sulle tratte gestite da Autostrade per l'Italia potrebbe ritrovarsi a pagare 10 centesimi in più rispetto al solito. L'incremento tariffario su questa rete è infatti dello 0,7%. Nei casi in cui questa percentuale corrispondesse ad una cifra superiore ai 5 centesimi, scatterà l'aumento di 10. L'aumento da 5 centesimi in giù, invece, viene arrotondato per difetto e il costo della tratta resterà lo stesso. In questo caso il rincaro va a sommarsi a quello più sostanzioso già applicato all'inizio di quest'anno. Dal 1 gennaio era scattato infatti un adeguamento tariffario pari al 3,47%. Questo fine settimana primaverile, però, riserva aumenti anche per altre reti autostradali. Chi percorre l'autostrada tirrenica gestita da SAT si ritroverà a pagare il 3,8% in più. E aumenti di circa il 3% riguardano anche i tratti che uniscono Brescia, Verona, Vicenza e Padova, i collegamenti di Torino con Milano, Piacenza e la Valle d'Aosta e la Milano-Serravalle. E queste percentuali non andranno ad incidere soltanto sulle spese degli automobilisti. Secondo la Coldiretti, l'aumento delle tariffe autostradali pesa in un paese come l'Italia, dove l'86% del trasporto commerciale avviene su gomma. E andrà senza dubbio a pesare anche sui prezzi di molti generi di consumo, in primis i prodotti agricoli e alimentari. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi in diretta. Raccontateci intanto se siete in viaggio, prima di tutto fermatevi, utilizzate l'auricolare se siete in viaggio, oppure fermatevi per utilizzare regolarmente il telefono se volete chiacchierare con noi. Vi siete accorti già questa mattina dei nuovi aumenti? Raccontateci in diretta. C'è chi ci scrive: sono un agente di commercio, per evitare le autostrade mi alzo prima la mattina. Bisogna avere tempo anche per fare questo, naturalmente. Chi ci scrive invece: la ferrovia, usare la ferrovia. Io credo che un autotrasportatore, sento subito Cinzia Franchini, presidente nazionale della FITA CNA, non possa purtroppo utilizzare appunto canali alternativi. Buongiorno presidente. Sì, buongiorno a tutti. Allora, voi avete già sollevato l'attenzione su questo argomento ieri con numerose prese posizione, perché temete naturalmente intanto l'aggravio dei costi per quello che riguarda la vostra ordinaria attività quotidiana, e poi anche le ricadute che ci possano essere, anche se magari su questi aspetti dovevamo sentire Coldiretti o altri, ma anche voi appunto potete ben rappresentare un po' la perplessità di molti operatori su questi nuovi aumenti. Qual è appunto la vostra considerazione, presidente? Sì, guardi, è così, l'ennesimo aumento. Noi eravamo ormai abituati, tristemente abituati agli aumenti di inizio d'anno. Oggi ci ritroviamo addirittura a fare i conti con aggiustamenti, come lei ha detto, e ad ulteriori aumenti. I costi dei pedaggi autostradali sono una voce di costo di fondamentale importanza per l'autotrasporto italiano, insieme a quello dei carburanti. Qui la situazione è ormai insostenibile, assolutamente insostenibile. pedaggi, assicurazioni, carburanti, traghetti stanno mettendo l'autotrasporto italiano ai margini, a vantaggio dei nostri competitori europei. E per quello che lei diceva, l'aumento dei prezzi poi di tutti i beni di consumo, guardi, io qua le dico chiaramente di cosa stiamo parlando. Certamente i beni non aumentano perché aumentano le tariffe dell'autotrasporto. Purtroppo gli autotrasportatori subiscono questi aumenti e probabilmente all'interno della filiera ci sono delle speculazioni che andrebbero indagate meglio. Quindi insomma qualche aumento che si verifica al termine della filiera, perché magari molti distributori dicono anche il trasporto per far arrivare le merci costa di più, per cui noi dobbiamo ricaricare, ma magari il trasportatore non ne ha nessun vantaggio di questo ricarico. Presidente, torno da lei adesso fra un attimo, devo andare da, poi comincio a coinvolgere anche Maurizio Caprino, appunto, ed Emilio De Leidi, ma siccome Luca Pozzoli, presidente di Univendita, può stare con noi solo pochi minuti, perché io in questo bingo di questa giornata l'ho cercato proprio nella giornata di Caserta in cui riunisce l'assemblea annuale. Presidente, buongiorno intanto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, so che questa mattina avete raccontato un po' come sta andando per il vostro comparto in questa fase economica che è piuttosto delicata. Io vi chiamo in maniera ovviamente senza nessun tipo di offese, i venditori porta a porta, ma insomma il canale della distribuzione diretta per molti generi appunto di largo consumo. Voi questa mattina nella vostra assemblea avete parlato anche di questa nuova, come dire, beffa, perché qualcuno l'ha definita anche così nel vostro ambito, forse di lei addirittura, Presidente. Sì, sì, l'ho proprio definita beffa, perché in un momento di crisi dell'economia, dove oltretutto noi come settore della vendita diretta a domicilio stiamo segnando un segno positivo, abbiamo un ulteriore aggravio di costi. Oltretutto non si parla solamente del costo per il trasporto delle merci, che nel nostro caso è tramite corriere. Abbiamo anche i nostri 67.000 incaricati che svolgono la propria attività in auto, quindi spostandosi devono soffrire appunto di questo incremento dei costi derivanti dall'aumento delle tariffe autostradali. Certo, e quindi insomma anche per voi chiaramente aggravi che poi si ripercuotono anche nel bilancio finale mensile, nelle entrate che chiaramente ogni vostro operatore si garantisce grazie alla propria attività. Volevo sentire se, Presidente, se può rimanere ancora qualche minuto con noi, volevo interagire anche però con i miei colleghi, con Maurizio Caprino ed Emilio De Leidi, perché Maurizio, qualche ascoltatore che magari non segue perché non è interessato la questione sui giornali, si chiede ma qual è l'aumento? Qual è il motivo di questo aumento dei pedaggi? Per la verità, quello di cui parliamo oggi era un aumento che sarebbe già dovuto scattare all'inizio anno, ma era stato procrastinato. Sì, era stato procrastinato perché in taluni casi, come quelli che appunto abbiamo citato, quindi la Brescia-Padova, le autostrade, grosso modo le autostrade che si ripartono da Torino e la Tirrenica settentrionale, chiamiamola così, c'era stato un blocco da parte del Ministero dell'Economia e del Ministero dello Sviluppo, in quanto bisognava verificare gli investimenti fatti. Gli aumenti in realtà derivano da una precisa formula che il collega Emilio De Leidi ha battezzato un paio di anni fa formula inghippo, poi ci spiegherà perché magari, e questa formula diciamo che tiene conto anche degli investimenti, oltre che di alcuni indici di qualità. Ora, il punto era capire che cosa fosse di questi investimenti. Il caso più clamoroso è quello della Milano-Torino, dove i lavori vanno avanti da tempo immemorabile e ancora adesso nella tratta da Novara a Milano ci sono tanti cantieri che rendono anche difficile e pericolosa la circolazione. Quindi evidentemente hanno fatto le loro verifiche, hanno detto che è tutto bene, almeno secondo le norme attuali, e quindi questi aumenti sono scattati. E sono scattati perché si ritengono appunto giustificati. Avremmo voluto anche saperne qualcosa in più rispetto a come procedono anche questi grandi investimenti che le reti autostradali sostengono di fare, ma insomma li vediamo anche noi con i cantieri, come ci diceva Maurizio. Io una volta al mese Milano-Ancona me la faccio avanti e dietro e so benissimo quanti cantieri incontro. Detto questo, se ci avessero spiegato, i signori di Autostrade per l'Italia, ma anche di AISCAT che abbiamo interpellato, hanno ritenuto di non intervenire a Salvadanaio perché dobbiamo così prendere atto in maniera passiva di tutto questo. Emilio De Leidi, piedi. La formula inghippo che ti sei allora così cimentato ad individuare, in che cosa consiste? Beh, è una formula che molti conoscono e che è piuttosto complessa, che tiene conto di tutta una serie di parametri che riguardano la remunerattività degli investimenti, ma anche l'andamento dell'inflazione programmata e addirittura il tasso di mortalità o di incidentalità sulle autostrade. Di fatto però è una formula che tutti i primi di gennaio di tutti gli anni fa sì che questi aumenti superino ampiamente l'inflazione, recuperino investimenti anche quando, come ha detto giustamente Maurizio, non sono stati fatti nel caso della Torino-Milano o sono stati fatti solo in maniera parziale. Voi pensate come sia possibile aggravare ulteriormente gli utenti di un'autostrada come il tratto lombardo-piemontese della A4, dove i cantieri sono aperti da più di 10 anni e per la realizzazione della corsia di emergenza di cui l'autostrada, che ha 3 corsie di marcia, ma appunto priva di quell'emergenza, è ancora priva. Voglio ricordare che nel tratto più milanese i cantieri non sono neanche aperti, cioè siamo ancora in una fase di progettazione o comunque di ottenimento dei permessi per fare questi lavori. Stiamo finanziando l'investimento in sostanza che ancora non si vede concretizzato. Maurizio Caprino? Tra l'altro in un'autostrada che non ha difficoltà particolari. Perché fosse un'autostrada di montagna va bene, ma siamo in piena pianura padana, quindi difficoltà geologiche non ci sono. Probabilmente oltre a questioni finanziarie ce ne sono alcune burocratiche, perché l'Italia poi ha questo particolare problema, no? Certo. Allora io faccio un'ultima domanda, Luca Pozzoli, presidente di Univendita, perché poi ci deve salutare e tornare alla sua assemblea. Voi avete detto questo ulteriore balzello andrà sicuramente ad incidere sul costo finale dei prodotti, perché l'aumento del pedaggio a breve appunto si trasferirà sui costi complessivi dei trasporti, lo dicevamo prima anche con la presidentessa dell'Affitta CNA. Le aziende associate ad Univendita assorbiranno i maggiori costi derivanti da questo aumento delle autostrade, ma prima o poi è chiaro che anche voi risentirete delle contraccolpo di tutto questo in vista anche dell'aumento dell'IVA previsto a luglio. Siete preoccupati, Presidente? Noi siamo molto preoccupati per l'aumento dell'IVA a luglio. L'aumento dei balzelli autostradali è una componente del costo del prodotto, ma ripeto, anche la cosa importante è una parte corretta dei costi dei nostri incaricati alle vendite. Ma quindi il problema del nostro paese è la riduzione del potere d'acquisto. I passi che si stanno facendo senza un governo che affronti la situazione e con misure. No? Abbiamo perso Pozzoli, non riusciamo più a sentirlo bene, adesso vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Detto questo, in ogni caso sono le 12:29, devo fare la prima pausa, il cuore delle considerazioni del presidente appunto di Univendita l'abbiamo ascoltato. Direi che possiamo fermarci, andare subito in pubblicità e poi ritornare e sentire anche le riflessioni dei numerosi ascoltatori che si sono messi in lista per intervenire in diretta sul tema di questa mattina, per cui signori di Autostrade per l'Italia, noi sappiamo benissimo che più 0,07% magari può rappresentare, così a giudicare a nudo la percentuale, una pochissima cosa, ma qua è l'ennesima beffa effettivamente che finisce a carico della platea dei consumatori. Ci sentiamo ed è soprattutto di chi viaggia molto. Ami, ma è si buono, fio mio. Questa è il signora che c'ha competenza, lo vedi? Competenza? Competenza di che? In camionista? Ma i camionisti sono bravi, io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo. E poi questi sai che ti dico soprattutto, e poi mi sono stufata, vabbè fatti iniezioni, dai! Oh! Ma insomma, me la fa o non me la fa iniezione? Ah signore, è fatta! Sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma, io la saluto. Io signore. Vi ringrazio. Mi vado a fare una mezz'ora di sonno, perché io vengo dal prendere. Sto mestiere non è un mestiere, è una galera. Madonna, ma come vi chiamate? Come mi chiamo? Mi chiamo del principe, signore. Ma davvero? Il principe? Io vi auguro buon viaggio, principe. Tante grazie. De niente, tanti signore. È stato solo. Grazie, grazie tante. Un esilarante brano tratto da Bianco, Rosso e Verdone. Abbiamo voluto un po' scherzare per così un po' descrivere la figura del camionista, dell'autotrasportatore nella versione di Carlo Verdone appunto e Soralella, ma in realtà sono sicuramente dei professionisti che fanno un lavoro durissimo e che sono particolarmente arrabbiati adesso perché sono stati sbloccati gli aumenti per alcune tratte autostradali con un decreto firmato l'altro ieri dai ministri dei trasporti e dell'economia, quindi nuovi nuovi balzelli, nuovi rincari e le conseguenze le subiscono soprattutto appunto chi? Coloro che viaggiano molto per il lavoro, e fra questi in prima fila ci sono proprio gli autotrasportatori. E noi questa mattina stiamo parlando di tutta questa nuova situazione che si sta creando in questi giorni sulle strade, le autostrade italiane soprattutto, e naturalmente molti ascoltatori sono pronti ad osservare, beh, mi sembra corretto, come dice una persona, che il prezzo del gas diminuisca quando inizia a fare caldo e si utilizzano meno i riscaldamenti, così come le tariffe autostradali aumentano quando la gente comincia a muoversi di più, visto che adesso arriva il bel tempo. Maurizio Caprino, e chiaramente, come dire, l'associazione di idee viene anche naturale, sta arrivando il ponte del 25, poi quello del 1° maggio, e speriamo sì, che i carburanti si siano fermi su questi livelli. Quello temo di no, perché comunque non si sono verificate nel frattempo particolari condizioni per cui ci siano ulteriori ribassi, ecco, quindi non ci spererei troppo. Ecco, più che altro mi aggrapperei a un replay dell'estate scorsa, quando il principale attore del mercato ha fatto il cosiddetto scontone, quindi quei carburanti, il gasolio a 1,5 e la benzina a 1,6, che hanno smosso un po' anche il mercato dei carburanti, e qualcuno ne ha approfittato insomma per muoversi di più, altrimenti certo, sarebbe rimasto a casa. Tra però per quanto riguarda le autostrade, esatto, è più difficile tecnicamente proprio fare dei ribassi e rialzi secondo la stagione, oppure secondo anche gli orari, perché era stato anche previsto, era stato anche proposto di fare degli sconti in notturna, esatto, però poi ci sono delle difficoltà sia tecniche sia anche di sicurezza che sconsiglierebbero di farlo onestamente. Mm-hmm. Tra l'altro, adesso lasciando da parte per un attimo il tema carburante, il traffico autostradale invece, in virtù di tutti questi aumentini che sono arrivati lo scorso anno, ha subito dei contraccolpi? Assolutamente sì, siamo al meno 7% e questo dimostra due cose fondamentalmente: che la gente si muove di meno e quando si muove magari evita l'autostrada quando possibile. Certo. Ovviamente ci sono situazioni in cui non è possibile, penso appunto alle categorie che abbiamo ascoltato prima, quindi i trasportatori, gli agenti di commercio, cioè possono farlo soltanto in poche tratte del sud dove effettivamente ci sono c'è una viabilità ordinaria che non è tanto intasata da essere improponibile rispetto, certo, l'autostrada. Però voi provate a fare Milano-Bologna, per dirne una, sulla viabilità ordinaria, e vi rendete conto che non è possibile. Cinzia Franchini, presidente nazionale della FITA CNA, anche perché molto spesso adesso, per quanto magari un autotrasportatore possa avere del tempo per studiare dei percorsi alternativi all'autostrada, magari trasporta anche merce deperibile che deve consegnare in tempi rapidi, non è mica sempre facile, no? Studiare delle alternative. No, guardi, non è assolutamente così, anche perché a noi viene chiesto di consegnare la nostra merce nel minor tempo possibile, e oltretutto noi siamo legati anche a una normativa sui tempi di guida e riposo, per cui non possiamo girare 18 ore al giorno, no? Al massimo possiamo guidare 9 ore al giorno, e con questo dobbiamo fare i conti. Io vorrei anche ricordare che noi in Italia abbiamo la rete infrastrutturale più vecchia d'Europa, e ad esempio anche per quello che riguarda le aree di servizio sono del tutto inadeguate rispetto alle esigenze degli autotrasportatori. Quindi veramente questi aumenti vorrei proprio vederli come li finalizzano. Assolutamente. E oltretutto vorrei ricordare che noi siamo stati bloccati quest'anno come l'anno scorso per 2 fiocchi di neve. Per cui, a fronte di continui aumenti, che servizi vengono erogati al mondo dell'autotrasporto, ma di fatto a tutte le persone che si spostano? A me sembra che questo governo tecnico sia stato molto tecnico nell'incassare gli aumenti, poco tecnico nel verificare poi come questi soldi incassati vengono spesi. Mm-hmm. E noi per questo siamo molto arrabbiati. Maurizio Caprino. Sì, al di là di alcune semplificazioni che sono state fatte, va detto che appunto il governo tecnico non è stato per esempio in grado di nominare, di avviare l'autorità per i trasporti, che avrebbe dovuto proprio vigilare su tutte queste cose. Tra l'altro ne abbiamo praticamente autorità che presidiano tutti i campi, questa che sarebbe fondamentale per lo sviluppo del nostro paese, ovviamente non c'è. La cosa peggiore è che questo governo l'ha creata ma poi non l'ha avviata. Allora adesso torno da Emilio Deledi. Emilio, però ti propongo anche qualche osservazione di qualche ascoltatore, così arricchiamo il dibattito. Allora sentiamo un po' quanto sono arrabbiati, da chi cominciamo? Era in attesa da un po' Giuseppe da Firenze. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Ci dica. La mia domanda era molto semplice. In un momento di contrazione, di decrescita, il Ministero e quindi anche il Parlamento, governo e Parlamento, come hanno aumentato dei balzelli, bollo sui conti correnti, revisione delle pensioni, eccetera, eccetera, potrebbero anche congelare per decreto e non come hanno fatto il contrario gli aumenti. Appunto, ma proprio in virtù di quello che lei diceva, siccome in realtà i sacrifici sono stati chiesti a tutti, secondo lei qua non autorizzavano questi aumenti chiesti peraltro dai concessionari, perché non è che il ministro che si alza e dice Giuseppe, però prendiamo atto appunto della sua idea, avrebbe potuto in un atto di sensibilità generale congelare appunto questi nuovi rincari. Sentiamo anche Alberto da Bergamo. Alberto. Sì, buongiorno a tutti. Io telefonavo e al di là di ogni ormai più scontata riflessione sul momento economico che stiamo vivendo, io faccio l'agente di commercio. Ecco, quanto le costa questo scherzetto, Alberto? Vabbè, magari non avrà fatto un calcolo, però quello che l'è scostato un anno fa. Però le posso dire che io quotidianamente percorro circa 300 km di autostrada, quindi fate voi i conti. Mi chiedo soltanto come mai io, che sono un cliente fedele e fidelizzato per obbligo ad utilizzare l'autostrada ed utilizzo il Telepass, certo, non possa usufruire di una riduzione sui pedaggi, perché è grande consumatore, visto che comunque il mio utilizzo di Telepass permette alla società gestrice dell'autostrada un risparmio sul casellante, sugli oneri, eccetera, eccetera, perché a fine mese mi manda una fattura che io puntualmente regolo rispetta, e pago. Certo. Alberto, quindi, sa che è una bella idea, perché voglio dire, anche le banche, per esempio, per chi ha un'elevatissima operatività, magari con il canale internet, oggi cercano di abbattere gli oneri. Emilio De Leidi, una fidelizzazione di questo tipo l'autostrada ha mai pensato di praticarla? Ma guardate, entrambi gli ascoltatori credo che abbiano molto ragione. Il problema è che tutto il sistema regolatorio delle concessioni e tariffe autostradali va ripreso in mano, ma c'è un vuoto di potere che giustamente Maurizio ha sottolineato, e c'è un vuoto di vigilanza, perché l'ANAS ha perso l'ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali, che è passato a una struttura del Ministero delle Infrastrutture che si deve insediare. Ora, certe forme scontistiche già esistono e sono addirittura ridicoli, perché io voglio ricordare che l'autostrada Torino-Bardonecchia, che è una delle più care d'Italia per costo chilometrico, fa degli sconti ai possessori di ski pass. Ora noi stiamo privilegiando, oppure ci sono gli sconti per i residenti in Val d'Aosta, i benestanti, stiamo privilegiando un certo tipo di utenza grazie al contributo degli enti locali, ovviamente, perché le società autostradali in questo caso non ci rimettono un centesimo, c'è qualcun altro che mette quei soldi paga, che non incassano, che a compensa, fronte invece di categorie come quelle degli autotrasportatori o delle persone che lavorano, come chi ha telefonato poco fa, che invece pagano sulla propria pelle questi aumenti e questo piano, questo quadro tariffario, che va completamente rivisto. E voglio aggiungere che anche, che come la Presidente Franchini ha denunciato poco tempo fa, è vero che in alcuni casi gli autotrasportatori stanno lasciando le autostrade, e sul prossimo numero raccoglieremo il grido di dolore di sindaci di 4 località che vanno dal Piemonte alla Toscana, che sono invasi dai TIR che per fare delle scorciatoie, e stiamo parlando di centinaia di mezzi pesanti, intasano, hanno cominciato a fare delle strade diverse, prendendo di più di gasolio, di tempo, eccetera, ma costretti da questa situazione tariffaria. Molto bene, insomma, mica tanto. I nuovi aumenti dei pedaggi autostradali, oggi al centro della puntata di Salvadanaio, con Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, Emilio De Leidi di Quattro Ruote, Cinzia Franchini, presidente nazionale della FITA CNA, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani, aderenti appunto alla Confederazione Nazionale degli Autotrasportatori, e tantissime le vostre richieeste di intervento all'800240024. Ma Maurizio, c'è anche uno sciopero dei casellanti oggi da qualche parte? Sì, c'è uno sciopero dei casellanti, perché in questo ambito di ristrutturazione, di questa ricerca di una redditività, perché al di là delle tariffe che aumentano, abbiamo visto che il traffico diminuisce, comunque i conti non quadrano neanche per le società autostradali. Il conto economico o il profilo tecnico, vabbè, Esatto, e allora praticamente stanno vedendo di dimezzare gli equipaggi che assistono il traffico, i cosiddetti ausiliari della viabilità, proprio per adibire le persone così recuperate ad altre mansioni, ma questo comporta anche dei problemi di sicurezza, perché ovviamente voi pensate, un equipaggio di due persone, se diventa uno e deve per caso spostare una gomma di un mezzo pesante che rimane sulla carreggiata, insomma è difficile che uno stesso operatore parcheggi il suo furgoncino, scenda e faccia questa operazione senza essere coperto, senza avere le spalle coperte da un collega, per cui queste sono operazioni che appunto vanno a scapito della sicurezza e sono fatte per dare una certezza di introito agli azionisti, che hanno delle rispettabilissime esigenze, tanto più che il settore autostradale ha bisogno di tante risorse finanziarie. Però ecco, c'è la crisi, dobbiamo tutti fare sacrifici, probabilmente dovremmo essere esattamente tutti a farlo. E a proposito di esigenze finanziarie, infatti un ascoltatore osserva: comprate azioni Atlantia, la ex autostrada, appunto la società controllata ancora dalla famiglia Benettone, no? Con edizione holding, autogrill e quant'altro. Chiusa parentesi, andiamo invece alle strade e le autostrade italiane, dove quotidianamente circola Maurizio da Biella. Buongiorno Maurizio. Sì, buongiorno. Senta, io sono un autotrasportatore, 57 anni, adesso per mia fortuna sono dipendente di una ditta. Però mi accorgo attorno a me che fanno i salti mortali, nel senso che quando c'è un aumento di qualcosa, in teoria dovrebbe aumentare anche i prezzi delle cose che compriamo. Purtroppo da anni gli autotrasportatori continuano ad avere le stesse tariffe o comunque molto minore, perché purtroppo se io vado in una ditta e dico: guardate, io devo guadagnare di più che non ce la faccio, hanno un libro con un casino di gente disperata che si mette al nostro posto. C'è anche stranieri, ma non ce l'ho contro i stranieri, perché loro hanno un costo minore di assicurazione, le ditte pagano meno tasse all'estero e vengono qua a lavorare, mi sembra una buona regolamentazione che di conseguenza ci metta tutti alla pari, perché in questa maniera uno dice: vabbè, continuo a lavorare così e mangio panini tutto il giorno quando mangio. Questa è la situazione. Maurizio, credo che la presidente della FITA CNA Cinzia Franchini non possa che naturalmente ribadire il suo concetto. Presidente. L'ho detto in premessa, assolutamente Maurizio ha ragione, è così. Quando dico che non dipendono dalle tariffe che aumentano degli autotrasportatori gli aumenti dei beni di consumo, intendo proprio dire questo. Ci sono altre speculazioni che vanno indagate. Osvaldo dalla provincia di Vicenza invece ci segnala una procedura particolare da seguire appunto con la società che gestisce il Telepass, perché forse è possibile avere uno sconto per chi viaggia molto. Osvaldo, non la conoscevo, io tra l'altro l'ho fatto da pochissimo, adesso faccio pure pubblicità qua. Chiusa parentesi, Osvaldo, buongiorno. Sì, ci dica. Buongiorno a tutti. È strano che non lo sappia nessuno. Io ho mia figlia che lavora a Vicenza, lavoro a Vicenza, dipendente, fa il tratto Tieneschio Vicenza Est tutti i giorni, andare e venire a casa. E quando ho fatto la domanda per avere il Telepass, gli hanno detto che con il timbro della ditta quale lavora ha uno sconto del 10% sul percorso che usa per fare il lavoro. No, vabbè, prendiamo atto. Sì, Osvaldo, grazie. Maurizio Capesso, intanto velocemente ho aperto il sito. Iniziative locali. Sì, sono iniziative locali, per esempio anche chi fa carpooling sulla Milano Laghi ha degli sconti. Quindi la divisione dell'auto praticamente, inizialmente, la condivisione dell'auto. Esattamente, anche il Telepass a Napoli, almeno inizialmente, aveva degli sconti, però sono tutte iniziative molto frammentate, appunto bisogna aver tempo poi per parlarne e per ricercarle. Infatti adesso mi ero aperto anche il sito, per la verità non vedo campeggiare niente di particolarmente niente che si leghi alla cosa che ci stava raccontando Osvaldo. In realtà ci sono per esempio sconti sui carburanti, la tessera premium per un anno e altre cose, però non abbiamo neanche i signori di Telepass adesso stamattina, non vorrei poi che la puntata girasse tutta su questo servizio. Il problema di cui stiamo parlando è un altro, i pedaggi appunto complessivi. Questo è un servizio con il quale si può pagare il pedaggio, ma non è che poi cambiamo molto l'entità appunto dell'aumento, non lo cambiamo per niente. Roberto da Milano, buongiorno, poi vado verso la conclusione. Sì, buongiorno. Ci dica. Io viaggio ormai da quasi 20 anni, faccio il pendolare, quindi non sono un trasportatore, ma sono uno che deve utilizzare autostrada per andare a lavorare, quindi siamo sull'ordine dei 160 km al giorno. Io ho sempre notato, e questa cosa ormai sta diventando abbastanza scandalosa, il fatto che qualsiasi servizio di trasporto incentivi i grandi utilizzatori con abbonamenti, cioè il treno lo fa, gli aerei lo fanno, tutti i servizi di trasporto hanno una forma di abbonamento. Io invece so che con la società Autostrade un utente che la usa una volta all'anno per andare in ferie la paga quanto me o quanto tutti gli altri che stanno chiamando in questo momento, che la usano tutti i giorni. Esatto, io ho dimezzato il costo della mia autostrada perché ho la fortuna di poter fare almeno la metà dei viaggi sulla strada provinciale. Su percorsi alternativi, sì. Mi dispiace per quelli dei luoghi che attraverso e che inquino, però d'altronde nessuno mi rifonde di questi aumenti. D'altronde, Roberto, magari ecco delle campagne di sensibilizzazione su questo potrebbero proprio partire dai sindaci, ma poveretti, qua ne hanno una al giorno. Emilio De Leidi, adesso ci manca pure che, però insomma, come ci dicevi tu prima, sentiti quelli del Cuneese, abbiamo sentito quelli della Toscana, cioè il problema esiste, la proposta di forme di abbonamento o di flessibilità oraria l'abbiamo ancora lanciata nel numero di aprile, la risposta è stata da parte della principale società di gestione, Autostrade per l'Italia, ma se noi facciamo una flessibilità oraria dobbiamo diminuire le tariffe in certe fasce e aumentarle in altre. E quindi alla fine, ripeto, non c'è un centesimo di riduzione tariffaria. Vogliono rinunciare neanche ad un centesimo. D'altra parte l'AISCAT è presieduta dal vicepresidente di Unicredit e ha una serie di poteri forti che la sostengono, al punto da aver minacciato azioni legali di risarcimento se questi ultimi rincari non fossero stati varati dal governo. E siamo con questa salutiamo con affetto Fabrizio Palenzona. Maurizio Caprino, vuoi concludere tu? Sì, allora, 20 secondi. Sì, allora stiamo vedendo che è uno scontro di poteri, perché poi non pensiamo che gli autotrasportatori non abbiano anche loro i loro poteri. Dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Certo è che è difficile anche economicamente, nel senso che l'autostrada dovrebbe essere, rispetto ai treni, agli aerei e a tutte le forme di trasporto pubblico, dovrebbe essere un po' disincentivata, perché insomma altrimenti torniamo alla congestione e all'inquinamento di cui ci eravamo tanto lamentati nel decennio scorso. Adesso con la crisi le cose sono cambiate e ovviamente ecco, sarebbe più ragionevole se in via transitoria appunto la finanza si accontentasse di meno introiti. Bene, noi insomma facciamo quello che dobbiamo fare, i problemi li solleviamo, qualcun altro però li deve risolvere. Grazie a Maurizio Caprino, Emilio De Leidi, a Cinzia Franchini, noi ritorniamo a Salvadanaio lunedì. Salvadanaio.